Quando è stata fondata la banda abbiamo giurato di proteggere il quartiere. E non lo facciamo. Io sono pronto anche a uccidere per difendere il nostro territorio. Siamo una famiglia qui.